in primo piano. Le aperture dei quotidiani sono quasi tutte sulla questione Berlusconi. Berlusconi è l'attacco in TV per il Corriere, per Repubblica, senza cervello chi vota a sinistra, è una delle frasi che sentiremo più ripetute dai giornali di Berlusconi. Per La Stampa, elezioni Berlusconi attacca, il giornale Pisa Pia ora ha paura, l'Unità invece mette la foto di Berlusconi al posto della Gioconda di Leonardo perché ha fatto anche una sorta di paragone tra lui e Leonardo, poi smentito. Il titolo dell'Unità è Delirio. Per Il Messaggero, Berlusconi, candidati deboli. Per Il Fatto Quotidiano, non lo vogliono più. Questo è riferito a Berlusconi per il fatto che all'assemblea oggi di Confindustria Berlusconi non è più gradito, così titola Il Fatto. Il Manifesto, bunker, bunker. Questo è il titolo sotto la foto di Berlusconi. L'apertura del Sole 24 Ore è dedicata a Mario Draghi, il candidato italiano alla presidenza della Banca Centrale Europea. Draghi, rischio inflazione, questo ha detto nel primo discorso ieri in Germania da candidato alla BCE. Le segnalazioni da cui voglio partire, una la troviamo su tutti i giornali, è avvenuta a Roma e dunque Il Messaggero vi dedica un'intera pagina, 13, ma anche Repubblica, pagina 22, Il Corriere, Il Giornale a pagina 17. Ieri c'è stata una retata contro i venditori abusivi in Piazza di Spagna a Roma e i vigili urbani che cosa hanno fatto per identificare la merce sequestrata e assegnarla al venditore abusivo a cui apparteneva questa merce? Hanno preso dei braccialetti, un po' come si usano negli ospedali quando nascono i bambini, no? Si mettono i braccialetti alla mamma, al papà e al bambino stesso per identificare, mettendoli al polso, i commercianti abusivi. Braccialetti ai venditori ambulanti, a Roma scoppia la polemica. Le proteste dopo il blitz dei vigili per Sant'Egidio sono stati marchiati come ad Auschwitz. C'è anche un'intervista al vescovo Mogavero con tanto di foto, no, di questi braccialetti messi al polso degli abusivi. È una misura che umilia i deboli. Il comandante dei vigili Angelo Giuliani a Repubblica in intervista dice: troppe liti, va bene, non li useremo più, ma è stato solo un modo per tutelare gli ambulanti, non fare confusione prima di stendere il verbale. Sono braccialetti di carta, uguali a quelli che vengono messi a mamme, neonati in ospedale, tanti li hanno tolti subito dopo il verbale, comunque non abbiamo obbligato alcuno ad indossarli e molti sono stati ben felici di farlo perché dava la possibilità di capire chi vendeva oggetti contraffatti e chi no. Anche per Il Giornale, braccialetti agli abusivi, vigili sotto accusa. La sinistra con CGIL o SEL e Comunità di Sant'Egidio urla al razzismo, all'attentato alla dignità. Vabbè, questa vicenda la trovate sviluppata sui giornali. La seconda segnalazione che voglio fare riguarda Sabrina Ferilli. La troviamo sul Messaggero. Oh, chi ricorda la pubblicità, credo sia passata anche a Radio 24, quella Valeria Bernardi già fa sì, si ha già capito, quella com'è? Chi so fa, beato chi so fa il sofà. Quella lì, no? L'abbiamo sentita chissà quante volte. E Sabrina Ferilli dice: l'abbiamo sentita troppe volte. Che ha fatto Sabrina Ferilli? E lo leggiamo sul Messaggero: ha querelato la stessa azienda per la quale ha fatto la testimonial. Perché ha detto: mi hanno mandato in onda in radio, TV, giornali troppo, ben oltre quello che era stato pattuito dal contratto. La Ferilli porta il sofà in tribunale. C'era una questione che non voglio ricapitolare, dicendo dovevano essere messi in onda spot per 90 giorni. La Ferilli pare si sia accorta da solo, dicendo: mi vedevo più in TV e sui giornali che allo specchio, e quindi ha fatto fare i conti. Pare che questa azienda abbia esagerato, almeno così dice la Ferilli, nella sovraesposizione mediatica, quindi facendo un danno mediatico a Sabrina Ferilli, che ora chiede, udite udite e sentite bene, all'azienda per la quale ha fatto testimonial un danno da 5 milioni di euro, dopo essere stata, immagino, pagata, anche ben pagata come testimonial. Evviva! In primo piano. E allora, la politica per quel che riguarda gli ultimi giorni prima del ballottaggio alle amministrative è tutta concentrata sui giornali, sulle dichiarazioni, sulle frasi di Berlusconi che era ospite Porta a Porta. La frase che più ritroverete sui giornali è questa: senza cervello chi vota a sinistra. Dure accuse anche al candidato De Magistris a Napoli: non è il nuovo che avanza ma il vecchio che ritorna, sarebbe una follia se vincesse. Mi viene in mente un film di Rosi, Le mani sulla città, ma in questo caso direi Le manette sulla città. E, insomma, poi di Pisapia, un uomo che ha alle spalle tutta la sinistra estrema, ha presentato in Parlamento soltanto legge a tutela di terroristi, degli eversori, per l'eutanasia. Insomma, un Berlusconi che attacca tutto campo. Però le frasi più interessanti che sono sviscerate dai giornali sono due in realtà. La prima è: candidati a volte sbagliati. Così titola la linea per il dopo voto il Corriere della Sera, cioè questa idea che Berlusconi, anche sulla stampa, candidati deboli. In sostanza commenta anche la stampa: Medeo la mattina, per salvarsi Silvio fa lo scaricabarile. È partita l'operazione scaricabarile per salvare il governo e anzitutto se stesso. Questa è la lettura della stampa con Amedeo la mattina, e anche il Corriere della Sera con Paola Di Caro. Il Cavaliere, smentendo manovre per sostituirlo, di fatto, pur senza fare nomi, ha detto candidati deboli, candidati un po' sbagliati. Insomma, un po' come a dire: non è colpa mia, dovessero andare male le cose. Tanto che il Messaggero a pagina 3 raccoglie uno sfogo, chissà se è vero, chissà se non vero, da parte di Letizia Moratti, lo mette titolato a pagina 3: l'ira del sindaco di Milano pronta a lasciare il partito. Letizia Moratti avrebbe minacciato di mollare il partito in assenza di una precisazione dopo la dichiarazione di Berlusconi sui candidati deboli. La seconda frase, che effettivamente o comunque ha aperto nuovi scenari, questo per esempio è il commento politico del Foglio in prima pagina, è questo: il fatto che il Cavaliere va in TV ed evoca la successione, cioè ha parlato di una possibilità di fare un passo indietro nel caso nel 2013 ci fosse un candidato liberale, insomma un candidato anche per ricompattare con l'UDC. Il Cavaliere va in TV ed evoca la successione, nel PDL già non si parla d'altro. Questo è il commento politico di Salvatore Merlo sul Foglio, appunto, in prima pagina. E scrive lì il Foglio: Alemanno, Tremonti, anche gli altri vedono un problema diverso e tra loro ne parlano molto, e cioè come evitare il rischio di una caotica immediata implosione della maggioranza nel caso in cui i ballottaggi di Milano e Napoli dovessero andare male. La risposta: modificando i rapporti di forza, aprendo una stagione di negoziati e alleanze per il futuro. E dicono questa frase, che viene virgolettata sul Foglio: per il 2013 ci vuole una nuova leadership. Tra l'altro, su questo viene intervistato, non tanto su questo, ma insomma in generale sulla situazione del partito, Sandro Bondi, l'ex ministro della cultura, dopo aver fatto un passo indietro, dopo essersi dimesso, torna in qualche modo a parlare del partito. Le correnti sono un segno di vitalità, così dice Bondi in questa intervista ad Andrea Garibaldi sul Corriere a pagina 2 e 3, ma non vorrei più fare il coordinatore. Si toglie anche un sassolino dalla scarpa per quel che riguarda Tremonti, col quale certo non ha avuto rapporti idilliaci per via delle sue dimissioni. Credo nell'alleanza strategica con la Lega, ma Tremonti dovrebbe spendere la propria autorevolezza e il proprio prestigio per rafforzare la classe dirigente del PDL, così dice Sandro Bondi, che difende invece Scajola, una figura di spicco del PDL. Sono addolorato per il nuovo tiro al bersaglio su di lui, tiro al bersaglio che tra poco vedremo. Anche oggi ci sono nuove indiscrezioni sulla cosiddetta lista Anemone. Insomma, ultimi scampoli di campagna elettorale, mentre De Magistris e Lettieri, due candidati a Napoli, si confrontano in ogni occasione, anche scontrandosi in maniera aperta. Non ci saranno più confronti televisivi tra Pisapia e la Moratti. Oggi pare che alle 10:30 del mattino Sky farà un confronto di questo tipo: Letizia Moratti versus una sedia vuota, perché insomma il primo dibattito era finito, come sapete, con l'accusa in finale della Moratti di le accuse di furto d'auto. Pisapia ha detto: mi doveva chiedere scusa, non l'ha fatto in questa settimana, in queste due settimane, dunque io non farò altri faccia a faccia. Pare che Sky oggi voglia fare questa cosa: la Moratti da una parte, una sedia vuota dall'altra, ma non è ancora confermato, vedremo. Di certo c'è che Bossi non si è presentato ieri a una manifestazione annunciata con la Moratti, manifestazione per il sindaco Bossi diserta, così titola pagina 5 del Corriere. Ci sono anche le ultime liste, interviste, una sorta di endorsement. Il Corriere intervista Vittorio Sgarbi che dice: con Letizia ho fatto la pace e può riconquistare la città, mentre dall'altra parte vedo barbari e devastatori. A fianco c'è un'intervista a Massimo Moratti, il presidente dell'Inter, cognato dunque di Letizia Moratti, che dice: Giuliano ha valori borghesi e incarna la voglia di nuovo, un po' come sua moglie Milly Moratti, che è contro Letizia Moratti. Massimo Moratti insomma dice: è evidente che a Milano c'è voglia di cambiamento e chi porta idee nuove trasmette passione, sa entrare in sintonia con la gente. Pisapia incarna la richiesta della città, ha intercettato il vento. Insomma, Massimo Moratti dice: Pisapia offre fiducia, gli altri offrono optional. Beh, se non è un appoggio aperto, ditemi voi. Mentre Repubblica intervista Cesare Romiti, lo fa Alberto Statera, pagina 7, e anche lui: Giuliano è un vero moderato, i milanesi reagiranno alla politica imbarbarita. E tra l'altro Romiti dice: finalmente si è svegliata la borghesia, hanno reagito i milanesi che non intendono farsi umiliare da battaglie di questo tipo, tendono a fregarsi dei partiti, a fregarsene, e fanno bene. Siamo di fronte a un imbarbarimento della politica, ma sono contento di questa cosa. E poi sulle accuse a Pisapia di essere un estremista dice: ma quando mai? Lo conosco da anni, è un signore per bene, educato, gentile, cortese, colto, un buon borghese di tradizione milanese. Non mi facciano ridere con le accuse di Zingaropoli e quant'altro. Vabbè, questo per quel che riguarda la politica. C'è anche la vignetta non male di Staino oggi sull'Unità, pagina 3. Gigi D'Alessio canterà a Milano per la destra. E la figlia di Bobo risponde: finalmente un terrone su cui scaricare la sconfitta. C'è anche una bella storia legata alle amministrative che viene da Bagheria ed è raccontata da Laura Anello su La Stampa, pagina 9. Sapete a Bagheria quanti sono i candidati? Si vota questa domenica e lunedì. Sono circa 528 per un posto in consiglio comunale. La storia della fabbrica dei candidati, la politica vista come ascensore sociale in questa città alle porte di Palermo. Se si fanno i calcoli vuol dire che uno ogni 87 abitanti tenta la carta della politica. Si candida anche, tra le storie illuminanti di Bagheria, il parcheggiatore abusivo di Bagheria, con tanto di santino elettorale. Allora, come detto, c'è ancora abbastanza, anzi molto, pagine sulla vicenda della lista Anemone, che è riscoppiata sui giornali, l'inchiesta del G8. Anemone, i conti coperti per pagare case e tangenti. Così Fiorenza Sarzanini sul Corriere. Ci sono delle liste di spese fatte da Anemone per chi? Molte sono occultate, molti nomi sono con gli asterischi. Certo, da ieri è tornato il nome di Claudio Scajola, l'ex ministro, sui giornali. Claudio Scajola, che è raggiunto da Repubblica a pagina 21, nell'intervista esordisce così: onorevole Scajola, la denunzio. Ma perché, scusi, adesso basta, chi fa il mio nome su questa storia lo denunzio. Aspetti, guardi, non c'è niente da chiarire, non c'è niente di nuovo, tutte balle, ho letto i giornali, tutte balle, state facendo la fine del mondo su nulla. E poi c'è il giornalista che continua a insistere: non so niente, se avete dei dubbi chiedetelo al magistrato, io a Perugia dopo un anno di indagini non sono stato nemmeno indagato, questa cosa vorrà dire qualcosa oppure no? Questa cosa peraltro non inciderà nei miei rapporti con Berlusconi, non ho voglia di parlare, punto e basta. Beh, ma però qualcuno però torna a diffondere notizie su di lei. Denunzio. Chi è Maria Corse, quella del rimborso da 168.000 euro? Non dico più nulla. Onorevole, lei però ha ancora la casa che aveva detto vista Colosseo di vendere. Io denunzio chi fa il mio nome. E il frullatore che fine ha fatto? La smetta, la denunzio. Cioè, tutta l'intervista è praticamente, o la pseudo intervista è così, nel senso che Scajola dice: io denuncerò chiunque accosterà il mio nome a questa vicenda e non ho nulla da dire. Anche per La Stampa, pagina 21, la lista Anemone, il giallo dei Mister X, cioè tanti Mister X racconta Guido Ruotolo, versamenti anonimi per milioni e milioni di euro di Diego Nemone. L'accusa è versava questi soldi, faceva favori per ottenere appalti, ma non si capisce neanche, bisogna indagare su chi sono i beneficiari di questi regali, di questi versamenti. Oh, voglio chiudere la pagina politica prima del traffico con che cosa? Con quello che ha dichiarato l'onorevole Scilipoti, perché attenzione, la vicenda è molto seria alla base, sapete, ci sono degli italiani ancora da mesi sequestrati al largo della Somalia su una nave. Mimmo Scilipoti, l'onorevole Domenico Scilipoti, ha dichiarato: sono pronto ad andare in Somalia a trattare coi pirati e lo farò a mie spese. Ho chiesto al ministro Frattini di organizzare una delegazione di cui sarei felice di fare parte, a spese mie, per andare in Somalia fino alla completa soluzione della questione. Ora, io lo so, molti diranno di voi, so già, ma mandiamolo in Somalia, ma lasciamolo pure partire. La Somalia non è uno dei paesi più tranquilli al mondo. Forse questo l'onorevole Scilipoti non lo sa. Non è uno di quei paesi dove si arriva, si sbarca alla frontiera, si timbra il passaporto e si dice: sono il responsabile, onorevole Scilipoti, voglio trattare coi pirati. In primo piano. L'apertura del Sole 24 Ore, come detto, è dedicata al discorso di Mario Draghi, che è il candidato italiano, il candidato unico e italiano alla Banca Centrale Europea. Tra un mese si spera ci possa essere la nomina. E ha messo in guardia, ieri parlava in Germania, ha messo in guardia contro due rischi principali, quelli segnalati, vale a dire l'inflazione numero uno, di cui dovrà tener conto la politica monetaria, e i debiti e i deficit pubblici, che solo con una crescita più sostenuta potranno essere corretti. E tra l'altro tutti i dettagli del discorso rischi da debiti e inflazione li trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore. Dal Sole voglio fare due segnalazioni anche. Uno, ci sono alcuni dettagli, anticipazioni, a pagina 5 da Nicoletta Picchio, di quella che è l'assemblea. Ieri c'è stato l'incontro privato e oggi ci sarà l'assemblea pubblica di Confindustria. Marcegaglia ieri nella riunione privata ha fatto un discorso abbastanza breve, nel quale ha parlato e ha ribadito la necessità di fare le riforme per lo sviluppo, soprattutto riforme sul fisco, le semplificazioni, il rilancio del Sud, questo per far crescere il sistema paese. Lo segnalo perché ne parlerà Oscar Giannino alle 9 e poi alle 10.45, dalle 10.45 in diretta Radio 24 trasmetterà il discorso nell'assemblea pubblica del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. La seconda segnalazione che voglio fare dal Sole è una segnalazione di quelle da istruzioni per l'uso che il Sole pubblica quotidianamente e che oggi la trovate nella pagina Finanza Mercati. Sono dedicate soprattutto agli investitori che si trovano a dover scegliere di investire e partecipare a quelle che sono gli IPO, cioè l'Initial Public Offer delle quotazioni in borsa, delle società che si quotano in borsa, che può essere un'occasione certamente per vedere aumentare i propri risparmi, ma anche un'occasione o un rischio insomma sono occasioni che non sono prive di rischi. E dunque tutte le istruzioni per l'uso di come gestire, di come muoversi nelle occasioni delle IPO, dell'Initial Public Offer, per chi debutta in borsa, le trovate a pagina 44 del Sole 24 Ore. Ho un'altra notizia economica che trovate su tutti i giornali, sviluppata, l'abbiamo sentita anche nel GR, è quello delle pensioni, no? È stato presentato con rapporto annuale dell'INPS il bilancio con tanti dati interessanti. Quello che viene più sviluppato da tutti i giornali è che la metà delle pensioni erogate dall'INPS sono sotto i 500 euro, e l'80% delle pensioni erogate agli italiani, l'80% non raggiunge quota 1000 euro, tanto che tutti i giornali si concentrano su questo. Repubblica, per esempio, con Vera Schiavazzi a pagina 15 segue giorno per giorno, con tanto di foto, con tanto di foto che immortalano poi i momenti della giornata, la giornata di Silvana Benenti, 76 anni, portati a meraviglia, pensione 500 euro, per la verità scherza lei, sono arrivata anche a 590 una volta con i conguagli. È una giornata fatta di che cosa? Di studiare i volantini per sapere dove costano meno frutta e verdura, mangiare poca frutta, mettere pochi condimenti, poco burro, poco olio, spegnere la luce in casa quando, se non strettamente necessario, va tolta l'energia elettrica per cercare di avere la bolletta più bassa possibile. Il cellulare è solo per comunicare con una tariffa speciale. Fortunatamente, racconta, non so usare gli SMS e quindi non li uso. Insomma, a leggere questa pagina viene un doppio sentimento, un pochino di tristezza sicuramente, ma anche un'estrema sensazione di dignità che emerge dal racconto di questa pensionata che, ripeto, da Torino racconta come con 530 euro si può vivere, certo con l'ansia sempre di vedere un qualcosa recapitato nella posta, magari l'aumento dell'affitto, oggi pago 135 euro al mese, ma da dicembre saranno un po' di più perché arrivano le nuove condizioni. Però insomma, certo, si calcola tutto, anche i 109 euro all'anno da pagare per il canone della RAI sono una spesa notevole da affrontare. Vabbè, io voglio concludere col sorriso, detto che c'è molto anche dell'inchiesta su L'Aquila, ma ne parleremo alle 8:20, cioè va a processo la commissione grandi rischi perché non hanno dato l'allarme per il terremoto. Ne parleremo alle 8:20 nell'intervista con il procuratore capo dell'Aquila, Rossini. La voglio chiudere col sorriso, chiudiamo tra un minuto, vero? La Venere nera ci insulta e noi le chiediamo pure scusa. Alessandro Dell'Orto su Libero a pagina 22 racconta in uno strepitoso articolo l'arrivo di Naomi Campbell sbarcata a Salerno. E la descrive così Alessandro Dell'Orto: 1,80 m, 86 cm di tette, culo e 61 di vita. È arrivata, il sindaco di Bellizzi, Pino Salvioli, gli ha regalato rose e mozzarelle di bufala. Lei ha detto anche un paio di beautiful, wonderful, facendo credere a tutti che oltre che bella è pure simpatica. Però poi cos'è successo? Un uomo della dogana gli ha detto: cara signora Campbell, può aprire la borsa per un controllo? E lì, da simpatica, dolce, carina, ha iniziato a fare una sceneggiata napoletana, chiamando il direttore dell'aeroporto, scrivendo al sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, lamentandosi per l'accoglienza di cattivo gusto. Insomma, racconta Dell'Orto: sapete com'è finita una vicenda simile in Gran Bretagna quando insultò un dipendente di Heathrow? Si beccò 200 giorni di servizi sociali. Sapete com'è finita in Italia? Una lettera di scuse della dirigenza dell'aeroporto a Naomi Campbell, che ieri è rientrata alle 18 all'aeroporto, non ha subito alcun controllo, è andata direttamente al suo aereo privato ed è volata via dall'Italia. E Alessandro Dell'Orto dice: evviva, se n'è andata. La Venere nera ci insulta e noi le chiediamo pure scusa.